so che cosa significa essere diverso. E tutto quello che devi sopportare, l'ironia, la pietà, repulsione, fastidio. La gente riesce quasi a farti sentire in colpa per quello che sei.